appello. Ora e per sempre a Dio sante memorie, cantata dal tenore Albani per la casa Patente. Ora e per sempre a Dio sante memorie, a Dio.